Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Non ho rimpianti e non devi averne neanche tu. Ci abbiamo provato e non ha funzionato. Forse un giorno deciderò di tornare. Ora sono felice qui. Amo quello che faccio. E si sa, in amore, a volte, vince chi fugge. A presto, Italia. Auguri, cervelli, ovunque siate fuggiti. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Davvero toccante questa campagna video virale di cui avete ascoltato un breve passaggio firmata da una nota agenzia di comunicazione, campagna che ha lanciato una riflessione sui giovani talenti in fuga dalla penisola. Le parole iniziali ricalcano quella della fine di una storia d'amore. Non è stato facile lasciarti, ma è stata l'unica scelta possibile. Ti amavo, ti amo ancora, ma le nostre strade dovevano dividersi. Lo spot non ha come protagonista un attore professionista, bensì un ragazzo che ha realmente lasciato l'Italia per lavorare a Londra. La frase della settimana è copyright della cantante Pino Daniele. Nel nostro paese bisogna insistere di più sulla cultura, in particolare sulla musica, la cui forza è oscurata dal sistema, che teme possa cambiare davvero le cose. Le orchestre non ci sono più, dice Pino Daniele, c'è la fuga dei cervelli. Insomma, non sono solo ricercatori, manager o architetti ad andarsene, anche i nostri settori culturali, linfa creativa del paese, si vedono progressivamente svuotati. Cosa resta qui? Un paese anziano. L'elevata sopravvivenza unita al calo della fecondità rende l'Italia uno dei paesi più vecchi al mondo, ha denunciato l'Istat, spiegando che l'indice di vecchiaia 148 anziani ogni 100 giovani ci colloca al secondo posto in Europa dopo la Germania. Secondo il sito politichegiovanili.it, l'Italia destina al fondo per le politiche giovanili un solo euro ogni 100.000 euro spesi dallo Stato. È davvero pazzesco. Infine, dati Eurostat alla mano, in Italia quasi 3,3 milioni di persone sarebbero disponibili a lavorare, ma non cercano impiego, il 13% della forza lavoro, oltre tre volte la media europea, record assoluto. Denuncia l'ILO, l'Italia si distingue a livello mondiale per l'elevato tasso di NEET, i giovani totalmente inattivi. Siamo settimi in questa poco onorevole classifica. In Italia i giovani sono colpiti da un calo maggiore del tasso di occupazione, mentre i lavoratori più anziani, per paradosso, lo vedono crescere. Premesso ciò, voliamo fin nel continente africano. L'Africa è un grande continente di immense opportunità, un continente giovane, la metà della popolazione ha meno di 20 anni e nei prossimi 5 anni sui 10 paesi a più alta crescita 7 sono africani. Emanuele Santi, 37 anni, è un economista, lavoro per la Banca Africana di Sviluppo in Costa d'Avorio, della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziari. Circa 50.000 italiani nel biennio 2011-2012 hanno lasciato il paese in cerca di fortuna all'estero, 13.000 in più rispetto ai 37.000 stranieri che hanno chiesto asilo in Italia. Lo afferma Migrantes Triveneto, che commenta: l'emigrazione dipende dal fatto che nei genitori di oggi c'è la sensazione che i figli dovranno vivere in una condizione sociale peggiore. La generazione dei giovani ha visto uccise speranze e futuro. Prepariamo persone con alta formazione e non diamo loro la possibilità di contribuire a far crescere il paese. Così 50.000 under 35 meridionali nel 2011 sono partiti per l'estero, 10.000 in più rispetto al 2010, lo denuncia Federculture. Un italiano under 35 su 3 è disposto a trasferirsi in un altro paese per sfuggire alla disoccupazione, il 24% lo farebbe per cercare migliori condizioni occupazionali, lo rivela un sondaggio Zurich Insurance Group. E per Spinlight PM, 6 giovani laureandi o laureati su 10 opterebbero per un'esperienza di lavoro all'estero. Nel 2014 probabilmente usciremo dalla recessione, ma sarà ancora un anno con disoccupazione in crescita. Se foste senza lavoro, cosa fareste? Cercherei in Italia e all'estero, così il 45% del campione censito dal gruppo LinkedIn Job Seeker Italy, secondo quanto riferito a Giovani Talenti. Il 17% ha risposto che andrà subito all'estero e il 29% punta invece sull'Italia. Avverte però la Commissione Europea, l'Italia è il paese peggiore per chi perde il lavoro. Le possibilità di trovarne un altro entro un anno sono il 15%, le più basse di tutti i 28 Stati membri. Bruxelles ha annunciato il rafforzamento dell'ufficio di collocamento Eures, sarà ampliata la presenza di annunci che includeranno quelli dei privati e sarà creato un database dei curricula. Oltre alla disoccupazione, anche i salari e le prospettive di carriera rappresentano alcuni dei motivi più gravi che spingono i nostri giovani professionisti a lasciare il paese. Secondo Almalaurea, il guadagno in Italia dei giovani dottori a un anno dal conseguimento del titolo supera di poco i 1.000 euro netti, a 5 anni non raggiunge i 1.500 euro. Secondo la Fondazione Rodolfo De Benedetti, economia e ingegneria sono in Italia le lauree che pagano di più in termini retributivi. c'è pure chi si è preso la briga di calcolare lo spread tra gli stipendi dei neolaureati immigrati dall'Italia e i loro colleghi rimasti nella penisola. Carlo Barone, docente di sociologia all'Università di Trento, autore della ricerca e percorsi lavorativi dei laureati italiani in uscita la prossima estate. Sentiamo. Il confronto Italia-estero non può essere fatto in modo diretto. Perché? Perché l'Italia è spaccata in due. Ossia c'è un Nord Italia e un Sud Italia dove le retribuzioni dei laureati sono diverse, quindi la cosa più sensata da raccontare è questa, cioè il confronto tra estero e Nord Italia, e qui chi va all'estero rispetto a chi lavora, stiamo parlando di laureati, in particolar modo laureati triennalisti, a chi con lo stesso titolo di studio lavora nelle regioni, diciamo, del centro-nord, può contare su un vantaggio retributivo che si aggira intorno ai 400 euro, 500. Tra estero e sud Italia, poiché i laureati meridionali guadagnano meno di quelli del centro-nord, il vantaggio di chi va all'estero può arrivare dai 5, 7, 800 euro al mese. Quello che però emerge drammaticamente è che nel complesso in Italia si guadagna meno se si investe nella propria formazione. Com'è possibile questo? Un primo aspetto da tenere presente è chi migra all'estero. Le persone che migrano all'estero sono più spesso persone che provengono dalle famiglie più, diciamo, altolocate, benestanti. Queste persone, i figli di dirigenti e liberi professionisti, tendono comunque anche in Italia a guadagnare di più. L'altro aspetto da tenere presente è la struttura produttiva del nostro paese è piuttosto arretrata rispetto a quella di tanti altri paesi europei, dell'Europa occidentale. Il dramma, secondo me, del nostro mercato del lavoro, più ancora della disoccupazione, è che noi da tre decenni siamo incapaci di creare occupazione qualificata, lavori da laureato. La struttura retributiva è collegata alla mancanza di lavoro qualificato. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta fino in Africa, un continente, lo ammettiamo, finora poco battuto dalla nostra trasmissione, ma molti dei nostri giovani professionisti hanno deciso di stabilirsi anche lì. Nome: Emanuele. Cognome: Santi. Età: 37 anni. Città di origine: Roma. Studi: laurea in scienze politiche, Roma 3. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2001. Per andare dove? A Washington DC. Perché? Per lavorare alla Banca Mondiale. Quale lavoro svolge attualmente? Sono capo economista per l'Africa occidentale. Dove? Presso la Banca Africana di Sviluppo, in Costa d'Avorio. Tornerai? Chissà. La musica ivoriana di Collective Yusumba e For the Pe per introdurre la storia di Emanuele Santi. Non ho alcun rimpianto di aver lasciato l'Italia, anzi suggerisco a molti di provare a studiare o lavorare all'estero per vari anni, aprirsi alla diversità di culture organizzative. Professionalmente non trovo grande interesse a tornare in Italia, un paese che ha difficoltà a valorizzare i giovani, spesso chiuso in se stesso. Emanuele, partiamo da questa tua riflessione che ci hai inviato. È questo uno dei problemi endemici dell'Italia, una classe dirigente provinciale che non ha mai messo il naso fuori dal ristretto circolo di amici? Beh, l'Italia ha certamente i suoi problemi, ma soprattutto il mondo in cui viviamo oggi, che ci impone veramente un'apertura, una capacità di vivere e pensare all'internazionale. Viviamo in un'economia globale che dipende sempre di più dai paesi emergenti, l'Asia, l'Africa, la Latina America, la cui crescita economica è sempre più determinante anche per la nostra. E questo dobbiamo capirlo, ma tu personalmente quanta fiducia riponi in un cambio di passo del paese attraverso una nuova generazione di classe dirigente formatasi come te all'estero? È possibile realisticamente? C'è uno svecchiamento della classe politica incoraggiante. Negli ultimi mesi abbiamo visto un primo ministro, però è solo quella per il momento, e un leader del principale partito politico che ne ha 38, quindi sono segnali positivi. Però appunto è solo quella per adesso. Sì, il paese comunque resta bloccato con poteri e interessi abbastanza consolidati, quindi ci vuole anche coraggio, non si vuole soltanto la giovane età per liberare l'energia del paese. Sì, basta vedere il settore economico, l'età media è abbondantemente oltre 60 anni. La tua storia ora: nasci in una famiglia normale come molte altre, che ti insegna, e qui mi piace sottolinearlo, il valore dell'umiltà. Questo è un contrasto che mi ha sempre affascinato, l'umiltà che sfoggiate voi giovani all'estero contrapposta a un paese dove tutto invece è apparenza. Perché l'umiltà è così importante, Emanuele? Questo è il grande tesoro che mi hanno lasciato i miei genitori, l'umiltà e la voglia di spingersi oltre. L'umiltà è essenziale proprio per migliorarsi, diceva Socrate, sapiente chi sa di non sapere. Quindi quando ci si misura all'estero si vede subito che abbiamo dei vantaggi, ma anche molto ritardo da accumulare. La tua carriera inizia in realtà con una profonda delusione. Ci racconti come hai trasformato a soli 16 anni un grave problema in una straordinaria opportunità? Beh, in realtà sono stati i miei genitori e la loro intuizione che ringrazio tuttora. A 16 anni mi viene diagnosticato una aritmia che un po' infrange il mio sogno di diventare un campione di basket, seguire le orme del padre, ex giocatore di Serie A, e per un po' trasformare questa delusione in opportunità i miei genitori mi mandano in Kansas, negli Stati Uniti, per un anno di liceo all'estero. Torno con una marcia in più, unico italiano nella scuola di quasi 2000 studenti, ho scoperto veramente un mondo... Tu la consiglieresti questa esperienza a un adolescente di oggi? Assolutamente, assolutamente sì. E com'è stato l'impatto di rientro in Italia invece? Ma l'impatto positivo, sono tornato con sicuramente una marcia in più. All'università punti su scienze politiche, avevi già in mente una carriera internazionale? Sì, assolutamente, volevo già da lavorare nella cooperazione e allo sviluppo, quindi la scienza politica mi ha dato sicuramente una buona base, ma presto ho capito anche che serviva a specializzarsi, quindi da qui il mio percorso anche in economia. Erasmus a Vienna, master post laurea a Bruges, che voto dai tu all'università italiana, ma soprattutto col senno di poi, meglio studiare direttamente all'estero? Probabilmente 7 su 10, l'università italiana dà ancora una base molto solida, all'estero andrei soprattutto per specializzarmi, per fare dei master. Concluso il percorso di studi è il momento di cercare lavoro. Due brevi esperienze in Italia segnano l'avvio della carriera. Che ricordo hai di quelle esperienze italiane in termini di opportunità? Boh, una bella esperienza, una buona scuola, ha fatto di tutto, da lavorare in un ristorante fino a lavorare in ONG. Esperienze molto comunque positive, senza grosse prospettive di lungo termine, ma che comunque poi mi sono servite. E perché alla fine scegli di andare all'estero per inseguire le tue ambizioni professionali? Ma nel mio ambito quella cooperazione era essenziale comunque partire. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. La tua prima vera esperienza all'estero dunque nel 2001 con una consulenza per la Banca Mondiale a Washington che dopo poco si trasforma in un contratto stabile. Quanto è stato difficile entrare in questa organizzazione e di cosa ti sei occupato negli anni successivi? Approdo a Washington dopo un mancato stage, ma un anno di contratti e grossa determinazione per veramente presentare la mia candidatura in più modi. Arrivo a Approdo a Washington dove lavoro subito su una trentina di progetti di cooperazione in varie parti del mondo. Il mio ruolo era quello di favorire la partecipazione delle comunità locali ai progetti di sviluppo, sviluppare programmi di good governance e quindi anche di comunicazione per permettere alle popolazioni meno avvantaggiate, diciamo, di prendere un ruolo più attivo nello sviluppo economico, un'esperienza fantastica. A Washington imparai a credere in me. Diversamente da un'Italia dove rispetto si ottiene col capello bianco, mi trovai in un mondo dove l'età contava poco. Le idee e la capacità di comunicarle erano tutto. Allora, Emanuele, è un radicale cambio di modelli culturali e di funzionamento della società, ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Largo alle idee, al merito, stop a logiche gerontocratiche e relazionali. Assolutamente, negli Stati Uniti conta molto più le tue idee e come le presenti. Ho imparato a vendermi, cosa che in Italia non nessuno ti insegna, anzi. Nell'autunno 2007, dopo una carriera internazionale condita da un dottorato a Trieste in politiche dello sviluppo, il passaggio alla Banca Africana che ti porta a Tunisi. Perché una decisione così radicale? E come sei arrivato in Banca Africana? Quanto ha contato il tuo curriculum? Beh, la voglia di Africa, la voglia di essere più vicino al continente dove lavoravo. Trovavo paradossale essere a Washington e gestire in forma remota lo sviluppo, quindi volevo essere nel continente. Come sono arrivato, il CV è stato essenziale, le varie esperienze che si sono accumulate, ma anche le pubblicazioni delle lingue, la progressione di esperienze mi ha poi fatto valorizzare in Banca Africana. E in sintesi, come si sono poi evolute le tue responsabilità in Banca Africana? Tra l'altro ricordiamo che sei passato ad Abidjan in Costa d'Avorio e ricordo che non hai neanche 40 anni. Perché l'Africa oggi può essere un continente di opportunità a livello di vita e di lavoro per un under 40? Beh, l'Africa è un grande continente di immense opportunità, è un continente giovane, la metà della popolazione ha meno di 20 anni e nei prossimi 5 anni sui 10 paesi a più alta crescita 7 sono africani. È un continente giovane, evoluzione, dove la lotta alla sopravvivenza offre veramente grandi dimostrazioni di ciò che può fare la natura umana nel bene e nel male. L'Africa ti sbatte la sua realtà in faccia, ti interpella, ti obbliga a dare risposte alle tue domande, è quello che mi attira e mi regala ogni giorno grosse passioni. È vero, molto affascinante quello che ci racconti. E un punto centrale della tua lettera riguarda l'importanza dello studio delle lingue, un investimento che tu hai perseguito con costanza e che si è dimostrato fondamentale. Perché oggi, diciamo, non basta più il solo inglese scolastico, ma serve essere multilingue? Beh, assolutamente, viviamo in un mondo super competitivo dove spesso l'inglese è soltanto un primo passo e quindi già saperlo bene è il minimo, diciamo. A me è stato chiesto sempre ogni cambio di lavoro di imparare una nuova lingua e reinventarmi, e per fortuna ho investito molto su questo aspetto e oggi ne... Diciamolo ai giovani in ascolto, studiate le lingue, non una, studiatene di più. Come vedi l'Italia dall'estero, Emanuele? Cosa c'è che non vai a una proposta concreta da cui ripartire? L'Italia, appunto, deve essere sbloccata, deve essere liberata e deve essere liberate le proprie potenzialità. Guardare anche l'esperienza di chi viene con una prospettiva diversa, che siano degli stranieri che vivono in Italia o che sono italiani che sono cresciuti ormai nell'ultimo decennio all'estero, può essere una proposta concreta da cui ripartire. Ma ci vuole una strategia per attirare tutte queste persone, molte come me, che non vedono veramente l'opportunità di ritornare. Tu ci torneresti? Ci ritornerei soprattutto per far crescere i miei figli in Italia o comunque in Europa. Questo è un desiderio più personale, ma a questo momento non vedo professionalmente una luce, mi piacerebbe vederla. Ci raggiunge ora in linea Caterina Valitutti, ex compagna di Università di Emanuele, professionista nel settore dello sviluppo e dell'assistenza umanitaria. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Caterina, ti lega a Emanuele il percorso di studi. Eravate infatti compagni di corso a Scienze Politiche. Ti stupisce vederlo arrivato nella posizione che occupa attualmente a soli 37 anni? No, non mi stupisce affatto, perché Emanuele è una persona molto preparata e molto determinata. E a rischio di sembrare un disco rotto, all'estero conta più la preparazione e i risultati che si ottengono nel proprio lavoro, delle raccomandazioni e dell'età anagrafica. Perfettamente d'accordo con te, Caterina. Mm-hmm. La tua strada, a differenza di quella di Emanuele, si è maggiormente orientata sul sentiero della cooperazione internazionale. Hai oltre 9 anni di esperienza sul campo. Allora, in breve, ci riassumi qual è stato il tuo percorso tra Messico, Niger e Sud Sudan e perché hai scelto questa strada? Mi sono avvicinata al settore della cooperazione sin dai tempi dell'università, facendo degli stage e del volontariato in ONG. Dopo una breve esperienza nel microcredito alla Grameen Bank in Bangladesh e in Messico, sono stata selezionata dalle Nazioni Unite, dove ho lavorato per 7 anni tra Niger, Chad e Sud Sudan, nell'ufficio del coordinatore dell'ONU, con responsabilità via via sempre maggiori nell'ambito del coordinamento degli aiuti allo sviluppo, della gestione dei progetti, della pianificazione strategica, un lavoro che ho svolto in stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche africane. Il vero punto di divergenza tra la tua carriera e quella di Emanuele sta nel ritorno in Italia, perché tu qui sei tornata per far nascere la tua bambina. Proprio sull'Italia ora vorrei centrare il focus della tua testimonianza. Quanto hai trovato un paese pronto a valorizzare, sottolineo valorizzare, il tuo curriculum professionale internazionale? Poco, per varie ragioni. In primo luogo, il settore della cooperazione allo sviluppo da qualche anno ha visto una riduzione considerevole dei fondi pubblici. Credo anche che non si comprenda la professionalità che si acquisisce facendo carriera nella cooperazione internazionale e che ancora troppo spesso viene associata al volontariato di stampo politico e religioso. E poi, fondamentale, non si creano le opportunità di accesso alle carriere per chi rientra dall'estero. Per farvi capire meglio brevemente, i miei ex colleghi europei, con esperienza nella cooperazione soprattutto in organismi internazionali, vengono corteggiati, tra virgolette, dalle istituzioni pubbliche e dal settore privato dei loro paesi, perché sono considerati professionisti dello sviluppo e delle relazioni internazionali, con competenze nell'ambito delle relazioni intergovernative, della gestione dei progetti, del fundraising, anche se sono over 35, e in Italia siamo lontani da questa realtà. Quanta superficialità hai trovato però anche in Italia? Perché effettivamente l'hai detto tu stesso, cioè non è solo questione di fondi o non fondi, anche la superficialità con cui si guarda a certe professionalità. Sicuramente, non c'è assolutamente, ma una professionalità anche data un po' dall'ignoranza di certe professioni. Direi soprattutto. Alla fine, quali opportunità professionali, anche per raccontarlo, hai trovato qui? Sono state soprattutto all'altezza del tuo profilo e delle tue aspettative? Io sto lavorando come responsabile di un centro di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. È un lavoro molto interessante e di responsabilità. Sappiamo però che il settore sociale in Italia è bistrattato e ha pochi fondi. A mio avviso offre insufficienti possibilità di crescita professionale per quanto mi riguarda. Non è escluso che decida di ripartire per continuare la mia carriera all'estero, dove il mio CV e le mie competenze sono conosciute e riconosciute. Concludi così la lettera che ha inviato giovanitalenti@radio24.it. Allora, Caterina, non c'è proprio alternativa. Se si desidera una carriera di livello, l'unica strada resta emigrare? Per quanto riguarda il mio profilo, in questo momento direi di sì. E poi i fatti sono questi. Dopo 10 mesi di ricerca lavoro in Italia, sono riuscita a fare un colloquio perché è raccomandata da un amico. Mentre negli ultimi 3 mesi ho inviato 3 curriculum alla Commissione Europea ed ho fatto 3 colloqui senza conoscere nessuno. E i selezionatori mi hanno fatto i complimenti. Ti fermo un attimo perché ci hai spiegato cos'è l'Italia e te ne ringrazio, Caterina. Sì, grazie. Caterina, grazie e in bocca al lupo. Grazie. Domanda di rito per Emanuele Santi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? direi go for it. Se tornerete sarete certamente arricchiti umanamente e professionalmente. Se mai non tornerete più, sarà sicuramente perché avete trovato il vostro nuovo posto in un mondo che è sempre più piccolo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un capo della comunicazione alla European Medicines Agency di Londra, scadenza per CV 29 gennaio, info su ema.europa.eu. Un capo delle risorse umane allo European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania, scadenza per CV 31 gennaio, info su embla.org/jobs. E infine un ingegnere elettronico per la ESS, European Spallation Source di Lund in Svezia, scadenza per CV domani, info su europeanspallationsource.se/vacancies. Siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi prima puntata dell'anno con le vostre lettere allo spazio Internective. Ci ha molto colpito la missiva da Zurigo del nostro ascoltatore Taro, che in poche semplici righe ha pennellato un quadro dell'Italia di oggi, società antropologicamente tribale, così la definisce. Sembra scomparsa ogni traccia di salutare competizione per un posto di lavoro, non sappiamo più neppure redigere un curriculum, tanto passa chi deve passare, no? Vivo all'estero dal 1999. Ora sono a Zurigo. Sono andato in Gran Bretagna per fare un dottorato, dopo una laurea in fisica in Italia. Una laurea non lunga, lunghissima. Dopo aver fatto il ricercatore per 2 anni e mezzo, sono entrato a lavorare nel campo della riassicurazione del rischio catastrofi naturali. Dal 2009 mi trovo in Svizzera. In Italia la gente è così immersa in una cultura antropologicamente tribale che se conosci qualcuno non mandi neppure il curriculum. Me ne accorgo quando aiuto qualche amico o amica a preparare il curriculum. Non hanno avuto mai alcuna guida su come prepararlo, come avviene nelle università inglesi o svizzere. Hanno pochissima esperienza di colloqui di lavoro. Direi che sono depressi, in uno stato di sudditanza psicologica verso i superiori o selezionatori. Mi spiego, sono così immersi nella italianità che non mandano nemmeno i curriculum. A volte non cercano nemmeno annunci di lavoro e non sono neanche disposti a spostarsi da casa. Si dà per scontato che dalla parte delle aziende ci sia il muro di gomma. Quando ho deciso di passare dalla ricerca a un lavoro nell'economia reale, avevo avuto un aiuto su come preparare il curriculum, sia dall'università inglese dove svolsi il dottorato, sia da quella dove lavoravo, su come affrontare il colloquio, sulle transferable skills dall'accademia all'industria e soprattutto avevo ottenuto un aiuto a mettermi nei panni del reclutatore. Man mano che mandavo curriculum e avevo dei colloqui, acquistavo sicurezza e imparavo. Alla fine avevo ridotto il curriculum da 4 pagine a 1 foglio A4. Avevo mandato quasi 100 di curricula ed ebbi quasi 20 colloqui. Una banca mi chiamò per 6 colloqui. Risultato, dopo un anno di ricerche, ricevetti 3 offerte di lavoro, di cui una dal governo di Sua Maestà. Qui a Zurigo poi mi sembra di vivere in una bolla di privilegio. Basti pensare che un neolaureato guadagna come molti dirigenti italiani. Il costo della vita è sì molto più alto che in Italia, ma anche i salari sono molto più alti. Tornando all'Italia, certo la situazione economica è depressa, ma ci sono elementi strutturali e culturali che si possono migliorare. Altrimenti l'Italia e gli italiani resteranno assolutamente impreparati ad affrontare il mercato globale, e siamo già in ritardo, sia dall'Italia, sia andando all'estero. Un motivo per restare o tornare. L'Italia ha consegnato a Bruxelles il piano Garanzia Giovani in arrivo dalla Commissione Europea, fondi per 530 milioni per l'attuale biennio, altrettanti ne dovrà stanziare il governo. Obiettivo assicurare che gli under 25 non restino oltre 4 mesi senza occupazione o formazione. Secondo il ministro del lavoro Giovannini, da marzo sarà possibile iscriversi al programma, che sarà monitorato attraverso un sistema informativo centrale. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Cambiare i modelli. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di gennaio è: quanto considerate mediocre, anziana, poco istruita e legata a meccanismi prettamente relazionali e familiari l'attuale classe dirigente italiana? E quanta parte di responsabilità ha, secondo voi, questa mediocrità nella fuga dei nostri migliori talenti all'estero? È giunto il momento di cambiare il modello di classe dirigente? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it.